Siamo stati scelti dal designer Manuel Gallinà tra alcuni studenti laureandi in prodotto industriale, in prodotto arredo. Ci ha scelto come studenti e solo successivamente poi abbiamo progettato i prodotti. Allora, andiamo a vedere il tuo prodotto, così me lo descrivi. È una poltroncina, si chiama Ply, in panno imbottita, realizzata per e da Living Divani. Sulla Posso provarla? sì, Comoda. sulla, meno male, sulla struttura in tubolare c'è la cuscinatura che grazie a questi bottoni può essere ripiegata a fare sia da bracciolo, piegandolo in questo modo, altrimenti può essere ripiegata. Andare a costituire uno schienale Un più po' più confortevole, più imbottito. imbottito. Ok. E poi si crea questo gioco di colori perché Esatto, se tra io interno ed chiudo con il esterno. bottone mi ritrovo il colore che non vedo in realtà Esatto. perché è un grigio. Sì, è un verde acido. Gli altri oggetti che vediamo qui non, cioè, sono stati progettati da altri Da ragazzi. altri studenti come me. Queste lampade fanno parte del set Pipe realizzate da Andrea Santaterra e per queste lampade ha sfruttato l'idea del tessuto e quindi è andato a realizzare queste lampade quasi imbottite.